così breve, ma mi sembra una tradizione, letteralmente sarebbe troppo lungo, abbiamo da udire il collega Pastorelli della sua relazione, e poi mi sembra sarebbe meglio che la discussione facciamo dopo le relazioni. Abbiamo bisogno di 5 minuti di intervallo o possiamo... Sì. Der Beginn hat sich etwas verzögert. Wir warten auf das Eintreffen des Herrn Kessler, neuestens Staatssekretär im italienischen Innenministerium und Verwaltungschef der Provinzialinstitution, von der auch dieses Institut hier lebt, der heute Morgen an unserer Konferenz teilnehmen möchte. Wir wollen aber nicht länger warten, wenn er kommt. Herr Pastorelli ist so freundlich, die Genehmigung gegeben zu haben, dass wir dann seinen Vortrag kurz unterbrechen, sodass Herr Corsini Herrn Kessler begrüßen kann. Und nun möchte ich Sie gleich dann bitten, das Wort zu ergreifen. Allora, ci sono due metodi di presentare la politica europea di De Gasperi, quello convenzionale e quello storico. Il metodo convenzionale si può sintetizzare nella formula usata dagli esaltatori Schumann, Adenauer e De Gasperi, padri dell'Europa unita, o all'opposto nell'altra formula usata dai denigratori che lo propone europeista perché servo degli interessi imperiali americani. Il metodo storico invece non ha ancora una sua formula, perché lo studio di questo aspetto della sua politica estera non è stato ancora condotto sulle fonti, come è avvenuto invece per altri aspetti. Le fonti in verità non aiutano molto ad effettuare questa indagine. Ci sono solo i suoi discorsi sul tema europeo, alcune lettere nei volumi De Gasperi scrive, nelle memorie di Sforza, nella biografia di Sforza scritta da Livio Zeno. Ma anche su queste deboli basi il tentativo di rappresentare la politica europea di De Gasperi può essere condotto se invece di puntare subito ad una sua definizione si cerca di ricostruire in concreto quale fu l'atteggiamento e l'azione di De Gasperi in rapporto ai 4 trattati europei che furono conclusi nell'era De Gasperiana. Il patto di Bruxelles del 17 marzo 48, l'accordo istitutivo del Consiglio d'Europa 5 maggio 49, il trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 18 aprile 51 e infine il trattato istitutivo della Comunità Europea di Difesa CED 27 maggio 52. Si realizzerà così un primo approccio concreto al problema, dal quale potrà emergere qualche conclusione forse diversa da quelle offerte dal metodo convenzionale. Herr Pastorelli sagt, es gibt bisher zwei Möglichkeiten, sich mit De Gasperis Außenpolitik zu befassen. Das eine ist die übliche. Da gibt es zwei Gruppen, diejenigen, die ihn loben und Elogien auf ihn verfassen, De Gasperi wie Schumann und andere, ein Vater Europas, und die Gegner, De Gasperi und andere Sklaven des amerikanischen Kapitals. Der andere Weg, den er vorschlägt, ist der Weg des Historikers, der sich zunächst einmal von Lob und Tadel enthält und nach den Quellen und nach den Fakten fragt. Und bei den Quellen steht es für De Gasperi schlecht. Keine grundlegenden Forschungen, keine bedeutenden Memoiren, keine bedeutenden Bücher, einige Briefe, einiges hat man. Unter diesem Aspekt fragt er, was kann man historisch, wissenschaftlich, verantwortlich, vertretbar heute schon machen, und sagt, es geht, ist möglich, de Gasperis Außenpolitik, konkrete Außenpolitik, an vier wichtigen, konkreten europäischen Verträgen zu überprüfen. Erstens der Brüsseler Vertrag vom 17. März 1948, dann 5. Mai 1949, Europarat, dann der Schumann-Plan, 18. April 1951 und schließlich die Europäische Verteidigungsgemeinschaft. Der Vertrag wurde, wie Sie wissen, am 27. Mai 1952 abgeschlossen. Allora, primo capitolo, fatto di Bruxelles. Il processo di integrazione europea prese concreto avvio con l'appello lanciato da Bevin alle Nazioni Libere d'Europa il 22 gennaio 1948 affinché si legassero più strettamente fra loro per creare un'unione occidentale. L'invito fu espressamente rivolto anche alla Nuova Italia che, dopo il regime fascista e la sconfitta, era tornata, disse Bevin, ad occupare il suo posto fra gli storici membri della civiltà europea. Questo invito, dopo una iniziale dichiarazione favorevole da parte del ministro degli esteri Sforza, fu lasciato cadere dal governo italiano. Mentre il negoziato tra i paesi che l'invito avevano accolto stava giungendo nella sua fase conclusiva, l'Italia ebbe ancora un'occasione di partecipare al patto di Bruxelles. L'iniziativa fu presa questa volta dagli Stati Uniti, desiderosi, dopo il colpo di Praga del febbraio 48, di rafforzare la posizione internazionale del governo italiano in vista delle elezioni politiche. E, secondo motivo, per fornire una risposta alla richiesta di garantire la sicurezza italiana che De Gasperi aveva rivolto fin dal dicembre del 1947 agli Stati Uniti. Il segretario di Stato Marshall chiese quindi ai cinque paesi che stavano negoziando il patto di Bruxelles se fossero ancora disposti ad accogliere l'Italia. Ebbe cinque risposte tutte positive e quindi trasmise questo invito al governo italiano. Abbiamo il verbale della conversazione dell'ambasciatore americano con De Gasperi e De Gasperi rispose di non ritenere consigliabile, cito letteralmente, che il governo italiano prenda un impegno di partecipare al patto di Bruxelles perché non è opportuno fare un qualunque passo che avvicini l'Italia all'Unione occidentale in mancanza di un Parlamento e in vista delle imminenti elezioni. Le ragioni addotte da De Gasperi, ragioni come vedete di ordine costituzionale, di correttezza costituzionale, non sono le ragioni vere che hanno indotto De Gasperi a declinare questa offerta, sono diverse da quella ufficiale. Vi era anzitutto lo stato insoddisfacente dei rapporti con la Gran Bretagna e la Francia che risentivano ancora gli effetti della guerra e delle questioni in sospeso per l'applicazione del trattato di pace. C'era in secondo luogo la reticenza delle stesse forze politiche di orientamento filo occidentale a coinvolgere il paese in nuove alleanze militari dopo le tragiche conseguenze che il patto d'acciaio del 39 aveva prodotto. E tale reticenza era poi alimentata per i democratici cristiani e i socialdemocratici da motivi ideologici che orientavano queste forze verso il neutralismo. Ma pure coloro che si rendevano conto dell'infondatezza per l'Italia dell'ipotesi neutralistica ritenevano che qualora la sicurezza del paese fosse stata minacciata si sarebbe potuto provvedere con una richiesta d'aiuto agli Stati Uniti. C'era un'altra ragione più profonda che dava peso alle precedenti e le spiegava, è la diversità delle esperienze vissute nel periodo fra le due guerre mondiali, dall'Italia come Stato, e tale diversità portava l'Italia a non comprendere che il motivo essenziale per cui alcuni paesi tentavano di unirsi e di costruire un sistema difensivo era il vivo desiderio di alcuni popoli, appunto, di evitare in materia di sicurezza gli errori del periodo fra le due guerre mondiali, che erano poi stati tanto duramente pagati dalle popolazioni europee. C'era infine un'ultima ragione. In due interviste, 22 e 26 aprile 48, cioè dopo le elezioni politiche, De Gasperi sottolineò che l'Italia, rispetto ai paesi del patto di Bruxelles, si trovava in una condizione di disparità, di inferiorità. E questa derivava dalle limitazioni imposte all'Italia dalle clausole militari del Trattato di pace e dall'insoluto problema delle colonie. Questo era l'indiretto annunzio che l'Italia, per prendere in considerazione qualsiasi idea di collaborazione europea, avrebbe posto delle condizioni. Condizioni che annunciò esplicitamente all'ambasciatore inglese a Roma e che fece comunicare dall'ambasciatore Tarchiani a Washington. Le reazioni di inglesi e americani furono diverse. Marshall si limitò ad ascoltare senza fare osservazioni. Bevin invece reagì molto più vigorosamente. Dichiarò in Parlamento che esistevano grossi ostacoli da sormontare, e cito la sua frase, prima che fosse chiara la posizione dell'Italia nel mondo postbellico, e dette poi incarico al suo ambasciatore a Roma di precisare a De Gasperi che l'adesione dell'Italia al patto di Bruxelles sarebbe stato un vantaggio per l'Italia e un peso per gli altri, per cui gli italiani sbagliavano se credevano di poter fare dei ricatti. Questo rifiuto del patto di Bruxelles ebbe due conseguenze molto notevoli e molto negative. Contribuì a far mutare l'iniziale favore verso l'Italia dei paesi associati nel patto di Bruxelles in una ostilità aperta e decisa, e provocò una crisi e concorse a provocare una crisi nei rapporti italo-americani finora del tutto sconosciuta. Su questo argomento uscirà adesso un articolo mio sulla nuova antologia, proprio il 15 settembre, e quindi non mi soffermo su questo punto. Per valutare questo rifiuto italiano occorre infine tenere presente il valore dell'offerta che c'era stata fatta. E per intendere questo valore occorre tener presente che l'obiettivo principale della politica estera italiana dopo il 25 luglio 1943, ossia dopo la caduta del governo Mussolini, era stato il recupero della posizione internazionale del paese compromessa dalla dittatura e dalla sconfitta militare. Questo obiettivo si cercò di perseguirlo immediatamente, quando, anziché andare a chiedere l'armistizio, si andò a chiedere l'affiancamento dell'Italia alla coalizione delle Nazioni Unite, cioè si seguì la politica del rovesciamento delle alleanze, politica che allora fallì. Si cercò di far riconoscere nel Trattato di pace che l'Italia era stata co-belligerante de jure delle Nazioni Unite, ma nemmeno questo tentativo riuscì. La proposta di Bevin poneva il problema in termini nuovi, perché portava finalmente un gruppo di paesi vincitori a considerare l'Italia non più uno Stato ex nemico, nel quale, come meno di un anno prima diceva il Trattato di pace, il fascismo era caduto per effetto delle vittorie delle Nazioni Unite, ma bensì come il paese che, rinnovatosi attraverso la lotta di liberazione, la resistenza e il ritorno al regime democratico, aveva ritrovato il suo posto fra le componenti storiche essenziali della comunità europea occidentale. Zunächst spricht Herr Pastorelli über den Brüsseler Vertrag vom 17. März 1948, mit dem die politische Westunion zwischen Großbritannien, Frankreich und den drei Benelux-Ländern geschlossen wurde, und behandelt die Frage, die auch in einem übermorgen erscheinenden Artikel in der italienischen Zeitschrift Nuova Antologia in einem Teilaspekt noch genauer von ihm behandelt werden wird, dann die Frage, warum ist Italien an diesem Vertrag nicht beteiligt worden? Und es gab Einladungen an Italien. Sie hatten verschiedene Gründe, unter anderem erstens die Prager Ereignisse, die mit ihren Folgen der Einschätzung der internationalen Lage durch die USA, und auch Frage, das eigene Sicherheitsproblem Italiens. Das führte dazu, dass die Vereinigten Staaten die italienische Regierung eingeladen haben, diesem Vertragswerk beizutreten. Der amerikanische Botschafter beim Quirinal hat de Gasperi diese Einladung übermittelt und de Gasperi hat abgelehnt, wobei er dem Botschafter gegenüber, es war noch vor den Wahlen vom 18. April 1948, über die wir gestern so viel gehört haben, wobei er als Verfassungsgrund vorschob, die Wahlen haben ja noch gar nicht stattgefunden, wir haben kein Parlament, es hatten noch keine Parlamentswahlen stattgefunden, weil die verfassunggebende Versammlung ja erst die Verfassung gegeben hatte, und vorher können wir keine Entscheidungen treffen. Herr Pastorelli sagt, das war aber nicht der wirkliche Grund. Der wirkliche Grund ist aus einer Reihe von Quellen zu sehen, und der wirkliche Grund war für de Gasperi, dass Italien einen Beitritt zu diesem Vertrag nicht bedingungslos vollziehen wollte, und zwar nicht, ehe es seine damaligen Interessen befördert sah. Und das war einmal, dass Italien, wenn es dieser Vertrag beitrat, nicht als gleichberechtigter Partner auftreten konnte, wegen seiner militärischen, machtmäßigen Inferiorität. Das Zweite, das Problem der ehemaligen italienischen Kolonien noch nicht gelöst war, und ohne eine vorherige Klärung dieser beiden Bedingungen zugunsten Italiens wollte sein Kabinett diesem Vertrag nicht beitreten. Im Unterschied zu Marshall, der sich diesen Bericht des italienischen Botschafters ohne Kommentar angehört hat, hat Bevin in London im Parlament die italienische Entscheidung als einen Fehler bezeichnet und daraus geschlossen, es stehen noch sehr große Brocken, sehr große Schwierigkeiten im Wege, ehe wir zu einer vertraglichen Zusammenarbeit kommen, wobei die negativen Konsequenzen, die Herr Pastorelli herausgearbeitet hat, in zwei Punkten bestehen. Einmal, dass zum ersten Male seit 1943 eine amerikanisch-italienische Krise, eine Spannung zwischen den beiden, in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern eintritt. Den zweiten Grund habe ich entweder nicht verstanden oder Sie haben ihn nicht vorgetragen, das weiß ich nicht genau. Die Folge aber war jedenfalls, dass beziehungsweise Herr Pastorelli, wenn ich ihn recht verstanden habe, bestätigt eigentlich im Nachhinein das damalige Urteil Bevins. In Italien sah man nicht die Vorteile, dass die Einbeziehung in einen multilateralen Vertrag auch zu schlechteren Bedingungen als der reinen Parität bedeuten würde, wenn man sich daran erinnert, dass Italien 1943 versucht hatte, die Fronten zu wechseln, kriegführend mit, also gegen Deutschland formell Krieg zu erklären, auf die Seite der Alliierten zu treten, das hatten die Alliierten abgelehnt. Und im italienischen Friedensvertrag, der ja am 1. Januar 1948 gerade in Kraft getreten war, war erklärt worden, es hatte Italien nicht die Kriegführung auf Seiten der Vereinten Nationen gegen Deutschland anerkannt haben können. Jetzt mit dem Brüsseler Vertrag wäre via facti durch die Tatsache dieses Vertrages Italien in den Kreis der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs einbezogen worden. Das hat man auf italienischer Seite nicht erkannt oder jedenfalls zu diesen Bedingungen nicht gewollt. Daher kein Beitritt Italiens zur Westunion am 17. März 1948. Allora, secondo capitolo, Consiglio d'Europa. Nel gennaio 48, oltre al discorso di Bevin, si ebbe anche l'iniziativa del Comitato Provvisorio per l'Europa Unita di convocare nel maggio all'Aia un grande congresso dei vari movimenti per l'unità europea al fine di precisare i modi che questa unità avrebbe assunto. Accanto al metodo funzionalista dell'Unione progressiva per settori, primo fra tutti quello della difesa, tra coloro che avevano un comune patrimonio di civiltà prospettato da Bevin, si veniva così a collocare la proposta del movimento dei federalisti, i quali sostenevano la tesi che si dovesse puntare subito all'unità dell'Europa attraverso la formazione di un governo federale degli Stati europei. Il congresso dell'Aia, svoltosi dal 7 al 10 maggio, non produsse risultati sensibili. Ebbe però una discreta eco nelle opinioni pubbliche e un notevole effetto sui circoli politici, perché rese popolare il concetto di sovranazionalità come idea fondamentale per la soluzione dei problemi europei, da quello della sicurezza a quello dell'economia. Nello stesso mese di maggio, De Gasperi formò il suo gabinetto, il suo primo gabinetto dopo la vittoria elettorale del 48. Nel discorso di presentazione in Parlamento, alla politica estera e al tema Europa in particolare, non era dedicato molto spazio. Si accennava semplicemente all'impegno del governo di far ratificare quanto prima la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica, OECE. Tale reticenza a parlare di politica estera si spiegava con la mancanza di un programma preciso riguardo alla politica europea. I partiti della maggioranza governativa e i tre partiti minori, liberali, socialdemocratici e repubblicani, assai più della Democrazia Cristiana, non erano contrari alla collaborazione europea, ma su quale forma essa dovesse assumere vi erano molte incertezze. Una decisione però urgeva, perché ai primi di luglio si ebbe notizia che i cinque paesi del patto di Bruxelles, più Stati Uniti e Canada, avevano iniziato le conversazioni dalle quali sarebbe nato il primo schema di patto atlantico. Inoltre, anche il programma federalista sembrava in sviluppo dopo che esponenti del governo francese avevano manifestato aperte simpatie per i progetti e i documenti che erano stati elaborati al congresso dell'Aia. Non abbiamo testimonianze sul dibattito che ne derivò e dal quale sappiamo però che prese parte attiva anche il Presidente della Repubblica Einaudi. Ma ne emerse certamente la decisione che occorresse fare un passo tendente ad affermare la volontà del governo di partecipare al processo di formazione dell'unità europea. L'incarico fu dato da De Gasperi personalmente a Sforza, il quale tenne un discorso il 19 luglio all'Università per Stranieri di Perugia, nel quale disse fra l'altro: «Bisogna che tutti sappiano che l'unico modo di salvarci da una terza guerra mondiale e l'unico modo di acquistarci noi italiani il solo primato che alla lunga conta, quello delle idee, è di divenire araldi dell'Unione Europea, di un'Unione aperta a tutti gli europei, abbastanza chiaroveggente da persuadere tutti a rinunziare a una parte della propria sovranità». Sforza passò poi a fare una critica serrata al patto di Bruxelles, dicendo che si trattava di un'alleanza tradizionale, che mancava di forza di attrazione e che soprattutto non considerava il problema tedesco. «Per risolvere il problema tedesco, disse Sforza, occorre far partecipare i tedeschi uguali fra uguali, liberi fra liberi, al lavoro per la costruzione di una grande federazione economica e politica dell'Europa occidentale». Questa parte del discorso di Sforza prefigurava la seconda decisione che il governo stava maturando per precisare la politica europea: puntare sul modello federale, quindi via della unità, non via dell'unione. La decisione fu presa nell'agosto, tuttavia non consisteva nella pura scelta del modello federale, ma introduceva una variante originale consistente nel proporre una realizzazione della federazione per gradi e la formula che sarà chiamata dal piano Marshall all'unità europea. E questa formula prevedeva di dare uno sviluppo politico ed una intelaiatura politica all'OECE, cioè alla collaborazione economica che si svolgeva tra i 16 paesi europei. De Gasperi approvò pienamente questo progetto sottopostogli dai tecnici e diede incarico a Sforza di presentarlo nelle sedi opportune. Ma quali potevano essere queste sedi opportune? L'unica via che si presentava era quella del governo francese. Il governo francese aveva proposto in sede di patto di Bruxelles, in sede di consiglio del patto di Bruxelles, lo studio dei progetti di federazione europea. Lo scopo dell'iniziativa francese era molto chiaro. Francesi e inglesi erano su posizioni diverse. I francesi per l'unità dell'Europa, gli inglesi per una semplice unione per settori. Questo argomento di divisione fra i due paesi doveva essere eliminato quanto prima, perché avrebbe portato, nel momento in cui si discuteva della costituzione dell'Alleanza Atlantica, un motivo di attrito fra di loro. I francesi quindi cercarono di incanalare anche la via federalista all'interno del patto di Bruxelles. Sforza si rivolse il 24 agosto al suo collega francese Schumann e gli illustrò questo grande progetto italiano di federazione partendo dalla base economica dell'OECE e sollecitò anche un incontro personale con Schumann per discutere il problema. Non sappiamo se Schumann rispose, cioè io non lo so. Certo è che l'incontro non ebbe luogo. De Gasperi da parte sua, ricevendo l'ambasciatore americano come spesso faceva, si adoperò nel migliore dei modi per spiegare la bontà della proposta italiana agli americani, che invece preferivano che la federazione europea avvenisse per gradi e attraverso il patto di Bruxelles. Con il trascorrere delle settimane divenne evidente che il governo francese procedeva per la sua strada e non dava il minimo ascolto al nostro progetto. Ed infatti i lavori in questo senso continuarono. Pertanto il governo italiano si rivolse allora in forma ufficiale a tutti i 16, gli altri 15 paesi dell'OECE e sottopose ufficialmente questo suo progetto. Si calcolava che in questo modo, se questo progetto avesse riscosso approvazione da parte dei paesi estranei del patto di Bruxelles, si poteva esercitare una pressione che avrebbe portato al prevalere delle idee italiane, gli araldi dell'Europa. Questi calcoli non si rivelarono fondati e per di più il problema europeo si intrecciò e quasi si confuse allora con quello della sicurezza. Rifiutata la garanzia del patto di Bruxelles, scartata l'ipotesi della neutralità sulla quale si discusse molto in Italia nell'estate del 1948, ci furono larghi dibattiti, restava come unica soluzione l'affidarsi ad una alleanza bilaterale con gli Stati Uniti. E furono fatte agli americani proposte in tal senso. Ma a Washington questa idea non aveva la minima possibilità di trovare accoglimento e dopo la crisi del marzo, cui ho fatto cenno prima, non v'era più nemmeno molta sollecitudine per i problemi italiani. Questa realtà apparve evidente negli incontri che De Gasperi e Sforza ebbero a Roma il 18 e 19 ottobre 48 con il segretario di Stato Marshall. Marshall parlò dei pericoli della situazione internazionale e della conseguente necessità per gli europei di unirsi, ma non invitò l'Italia ad unirsi al patto di Bruxelles, non la invitò a partecipare alla costituenda alleanza atlantica, né tantomeno fece alcun cenno all'idea di un'eventuale alleanza bilaterale. Il totale silenzio di Marshall su questo aspetto del problema, su qualsiasi aspetto del problema della sicurezza italiana, fece riflettere De Gasperi ed anche Sforza sullo stato dei rapporti fra l'Italia e gli Stati Uniti e sull'approccio sino allora seguito in materia di politica europea. Cominciò a farsi strada il convincimento che per provvedere alla sicurezza del paese occorreva bussare alla porta dell'Europa, di un'Europa certamente non perfetta, non federale, non unita, di cui però la Francia e la Gran Bretagna, con ruoli diversi, avevano assunto la leadership e conveniva anche abbandonare di conseguenza il disegno di farsi araldi di traguardi più ambiziosi, ma per il momento assolutamente irrealizzabili. Altrimenti si sarebbe corso il rischio di essere posti ai margini del processo di unificazione europea e questo rischio De Gasperi non volle correrlo, perché il legame con gli stati dell'Europa occidentale era non solo una necessità economica, ma una precisa esigenza politica, offrendo la migliore salvaguardia che l'Italia, approdata faticosamente al regime democratico, avrebbe continuato anche nel futuro a mantenersi affiancata ai paesi di più vecchia e consolidata democrazia parlamentare. Il maturarsi di questo convincimento avvenne naturalmente per gradi e in tale processo De Gasperi ebbe una parte determinante, soprattutto nel convincere i suoi colleghi di governo. Finalmente nel novembre accettò un invito che già gli era stato rivolto nei mesi precedenti di tenere una conferenza a Bruxelles nella sede delle Grand Conférences Catholiques. L'occasione era propizia per manifestare finalmente in modo chiaro e preciso la disponibilità dell'Italia a partecipare al processo di unificazione europea. Conferenza tenuta il 20 novembre ebbe per titolo Le basi morali della democrazia e in essa De Gasperi mise in risalto il contributo dato dal cristianesimo alla democrazia e sviluppò poi il concetto della sintesi che il regime democratico realizzava fra libertà politica e giustizia sociale. Per concludere che entrambi questi valori si difendevano e si raggiungevano solo in un clima di pace e di sicurezza che invece in quel momento non esisteva. Oggi, disse De Gasperi, c'è una sorta di guerra guerreggiata. e la stessa pressione, gli stessi pericoli minacciano i nostri paesi. Ecco perché per resistere a tali pressioni è necessario ricorrere alle energie ricostruttive ed unitarie di tutta l'Europa. E concluse affermando la disponibilità dell'Italia a rinunziare a una parte della sua sovranità affinché si facesse l'Europa. In quella occasione ebbe anche contatti con il belga Spaak e con Schuman. Spaak non era particolarmente amico dell'Italia e quindi non disse nulla di quanto si stava facendo per la nascita del Consiglio d'Europa. Schuman, anche per colleganza di partito, ma anche per il suo carattere più franco e aperto, disse chiaramente che il progetto italiano non solo era stato discusso, ma che la sua presenza dava notevole fastidio agli inglesi, perché gli inglesi ritenevano che dare un contenuto politico alla CECA, alla OECE, significava far correre il rischio di guastare anche l'OECE con la politica. Queste sono parole del verbale di De Gasperi sulla riunione che ebbe con Schuman. Era in pratica un indiretto invito a ritirare il progetto italiano. Questo invito fu accolto e il compito, ancora una volta, l'ebbe Sforza di annunziare la nuova linea politica alla quale si sarebbe attenuto il governo italiano. Sforza disse tuttavia che nessun consesso europeo era concepibile senza la presenza dell'Italia. Questa idea non sarebbe stata accettata molto volentieri dagli altri se l'Italia non avesse operato una correzione definitiva di rotta, se cioè non avesse annunciato che non poneva condizioni per aderire al processo di integrazione europea. E infatti nel suo discorso Sforza, dopo aver fatto grandi lodi del progetto inglese, il che significava ritiro del progetto italiano, disse che la politica delle contropartite per fare il proprio interesse è in realtà il colmo della dabbenaggine, perché, chiamiamo le cose con il loro nome, questa sarebbe null'altro che la politica del piccolo ricatto, esattamente quella politica che si era fatta. Il discorso di Sforza pronunciato in Parlamento da un ministro responsabile fu appunto il segnale di questa correzione di rotta. E Schuman allora accettò l'invito di incontrare Sforza e allora fece presente che i francesi si sarebbero fatti promotori di una partecipazione italiana ai lavori per la costituzione del Consiglio d'Europa affinché anche l'Italia figurasse con la Francia tra i membri fondatori. Espresse però Schuman solo un auspicio, una speranza, perché non era certo che la proposta francese sarebbe stata accolta dagli altri. Il risoluto passo verso l'Europa compiuto da De Gasperi costituiva una risposta precisa alle perplessità circa l'orientamento delle forze politiche di maggioranza sollevate dalle vicende legate al rifiuto di aderire al patto di Bruxelles. Allora a Washington, ma anche a Londra, si era ritenuto che quelle forze, pur di ispirazione filo-occidentale, intendessero barcamenarsi tra Oriente e Occidente, in un mondo decisamente diviso in due parti contrapposte dalla guerra fredda. Ma non era facile cancellare un semestre di politica incerta, nel corso della quale l'Italia democratica aveva dimostrato di volersi un po' defilare dai suoi naturali amici dell'Europa occidentale. La riunione del Consiglio del Patto di Bruxelles del 29 gennaio accettò la proposta italiana di la richiesta italiana di aderire a nuovo costituendo la nuova costituenda istituzione europea e De Gasperi il 15 febbraio 49 ne dette tempestivo comunicazione alla Camera sottolineando che finalmente l'Italia usciva dalla situazione unilaterale del dopoguerra e rientrava come tutti gli altri nella famiglia europea. Naturalmente la maggior parte del discorso dovette dedicarla a confutare l'accusa che il costituendo Consiglio d'Europa fosse un organo dei capitalisti, degli imperialisti, eccetera, eccetera, sollevate dall'opposizione social comunista. La decisione di superare gli ostacoli che intralciavano il cammino da percorrere per condurre il Paese all'appuntamento con l'unificazione europea costò certamente a De Gasperi un lungo travaglio, perché comportava la revisione di atteggiamenti che si erano dimostrati non del tutto consoni all'obiettivo fondamentale della politica italiana. Era, in parole povere, l'ammissione di un errore, pur se non imputabile interamente a propria colpa, giacché una parte notevole nell'indurlo a compiere questo errore avevano avuto il consiglio dei tecnici, Ministero Esteri, Ministero Difesa, e soprattutto il sentire dell'opinione pubblica e le posizioni sostenute dalle forze politiche di maggioranza, prima fra tutte la stessa Democrazia Cristiana. L'aver avuto il coraggio e l'onestà di riconoscerlo e la capacità di correggerlo rappresenta il merito maggiore di De Gasperi in questa vicenda. Pastorelli hat nun im zweiten Teil beschrieben, sehr detailliert und genau, wie der Weg Italiens von dem Nein zu den Brüsseler Bedingungen hin zum Wiedereintritt Italiens in die Familie der übrigen Staaten des Westens sich im Jahre 1948 vollzogen hat. Es beginnt bis hin zu den Entscheidungen vom Frühjahr 1949. Es beginnt mit dem Haager Kongress der europäischen Bewegungen, der keine unmittelbaren politischen Folgen hatte, aber eigentlich das Thema einer Einigung oder Einheit Europas zu einem politischen Hauptthema gemacht hatte. Immerhin überrascht, dass in De Gasperis neuem Kabinett, das nach den Wahlen vom 18. April 1948 gebildet worden ist, in der Regierungserklärung über Europa und europäische Einigung sehr wenig gesagt ist. Der Grund ist nach Herrn Pastorelli sehr einfach darin zu finden, dass man nicht über ein europäisches Programm verfügt. Die kleineren Parteien noch vielleicht etwas mehr noch als die Democrazia Cristiana. Man hat nichts gegen Europa, aber man hat sehr viel Unsicherheiten über das, was Europa ist. Und im Juli treffen nun erste, im Juli 1948 treffen erste Nachrichten in Europa, in Italien ein, dass innerhalb des Brüsseler Paktes die Vorbereitungen zur Gründung der NATO kommen. Das alarmiert die italienische Regierung in gewisser Weise und in einer bedeutenden Rede in Perugia am 19. Juli 1948 wird von italienischer Seite jetzt das Programm aufgestellt und seit der italienischen Regierung. Das einzige Mittel, den Dritten Weltkrieg zu verhindern, ist, dass Italien als Italiener sollen werden, Araldi, die Unione Europea. Wenn man das wörtlich übersetzen würde, würde es heißen Herolde der europäischen Einigung, aber das sagt nicht die eigentliche Bedeutung, sondern wir würden sagen, soll Vorreiter der europäischen Einigung werden und der italienische Außenminister Sforza hat kurz, und zwar auch unter Verzicht auf Souveränität, und der italienische Außenminister Sforza hat kurz darauf gesagt, Brüssel löst keine Probleme, weil es noch ein alter, traditioneller Vertrag von souveränen Staaten, ein Sicherheits-, ein Verteidigungs- Bündnis ist, er löst vor allen Dingen nicht das deutsche Problem. Deutschland war ja, Brüssel war ja formell, der Brüsseler Vertrag, das hat der Pastorelli nicht ausgeführt, war ja formell ein Vertrag, der sich gegen Deutschland richtete. Formell als Abwehr einer eventuellen deutschen Gefahr. Und Sforza spricht hier von einem Eintritt aller Mächte auch Deutschlands, uguali qua uguale, libra qua libra. Das heißt also, es muss eine Einigung auf einer Plattform sein, auf der Gleiche miteinander gleich verkehren. die Frage, die konkrete Frage der Außenpolitik lautete damals Einheit oder Einigung, Unità o Union. Und das ist die gleiche Frage, in der innerhalb des Brüsseler Paktes England und Frankreich völlig unterschiedliche Positionen, nicht miteinander zu vereinbarende Positionen vertreten. Weil England sagt, jeder Schritt auf Einigung hin gefährdet die wenigstens wirtschaftliche Zusammenarbeit der 16 Länder des Marshallplans in der OECD. Während Frankreich auf Unità hinzielt, das heißt also auf Einheit und dies auch gegen England durchsetzen kann. Ich will jetzt die Einzelheiten des Weges, wie es jetzt kommt, nicht im Einzelnen nachzeichnen. Pastorelli kann an dem Verhalten Schumanns, der im August, einen Brief vom 24. August 1948 Sforza an Schumann, ob er geantwortet hat, weiß man nicht, aber dass die italienischen Initiativen, Italiener als Vorreiter der europäischen Einigung, von Frankreich sehr kühl behandelt werden, das ist auch bei der heutigen Quellenlage schon evident. Als Marschall im Oktober in Rom ist, da spricht er zwar viel von den Gefahren, aber er macht nicht die geringste Andeutung, auch nur, dass Italien zum Eintritt in den Brüsseler Pakt aufgefordert wird, dass Italien der NATO beitreten könnte, oder auch nur, dass ein bilateraler Vertrag zwischen den USA und Italien die italienischen Sicherheitswünsche befriedigen könnte. Und diese Reserven, sowohl in Frankreich wie auch in den USA, führen zunächst einmal das italienische Kabinett, nicht die italienische Öffentlichkeit, und im Kabinett vor allem De Gasperi, zu einem Nachdenken, ob die Entscheidung gegen den Eintritt in den Brüsseler Pakt eigentlich richtig gewesen sei. Und in dem gleichen Augenblick, in dem dieses Nachdenken sich nun auch öffentlich artikuliert in einer Rede im Parlament und so fort, dort ist sofort dann Schumann bereit, nachdem hier die italienische Position, wir treten nur zu gleichen Bedingungen einer Vorklärung der Bedingungen, nachdem sie verlassen ist, ist Schumann bereit, sich aktiv zu helfen, zu fördern, dass Italien in den Kreis der übrigen Mächte hineintritt, auch um den Preis einer Abkühlung des Verhältnisses zu England hin. Und der Pastorelli hat dann gesagt, das geht dann hervor, aus Reden und Interviews, zunächst an meiner Rede noch in Brüssel bei einem Kongress, als De Gasperi eine Rede über le base morali della democrazia gehalten hat. Ich will die Einzelheiten hier auch nicht bringen, sind doch nicht so wichtig, dass die eigentliche staatsmännische Leistung De Gasperis darin besteht. Im Winter 48 auf 49, erstens erkannt zu haben, dass er 48 einen Fehler gemacht hat. Und zweitens seiner Regierung, seiner Partei und der Öffentlichkeit, jedenfalls der Öffentlichkeit, die ihn trägt, erinnern Sie sich daran, dass De Gasperi ja eine Mehrheit der Parlamentssitze in den Wahlen vom 18. April 48 gewonnen hatte, dass er seinen Anhängern erklären kann, wir haben es falsch gemacht, wir müssen es jetzt anders machen, wir können nicht Vorbedingungen stellen, aber auch ohne Abklärung der Vorbedingungen in die übrigen, uns mit den anderen zusammentun, bedeutet, dass die Position der Besiegten des Krieges zum ersten Mal überwunden ist und auf dieser Basis können wir uns einigen. Das ist dann eigentlich das außenpolitisch entscheidende, fundamentale, das mit dem Vertrag für den Europarat vom 5. Mai 1949 gewonnen ist. Aber ich glaube, ich habe gesehen, dass wir inzwischen noch Besuch bekommen haben. Dürfen wir vielleicht unter ein Momentchen unterbrechen? Bitte schön, Herr Präsident. Come è stato precedentemente all'inizio di questa relazione annunciato dal professor Reagan, facciamo una brevissima parentesi perché è arrivato l'onorevole Kessler, sottosegretario di Stato agli interni, e desideriamo, se è così cortese di avvicinarsi, porgere a nome di tutti gli illustri relatori, dei corsisti e degli uditori qui presenti, porgere il nostro cordiale saluto e ringraziamento per questa sua visita, che era quasi insperata perché è appena ritornato dal Messico e ha dovuto poi partecipare ad un grosso impegno a Riva del Garda in un altro congresso. E poiché noi trentini conosciamo quale sia stata l'opera e i meriti dell'onorevole Kessler anche per questa nostra istituzione, ma altri forse no, mi consentiranno di dire che la stessa iniziativa, l'organizzazione non solo dell'Università di Trento ma anche di questi istituti che gravitano all'intorno di essa e che vivacizzano in un modo tanto, tanto rilevante, come si può vedere in questi nostri seminari, la cultura trentina, tutto questo è grande parte, grande merito dell'onorevole Kessler, che ha visto come, ha intuito come la cultura si ponga indubbiamente a fianco della politica nel modo di una collaborazione la più sicura, la più fondamentale, quale viene proprio dalla conoscenza dei problemi del Paese e dell'Europa intera. Posso assicurare l'onorevole Kessler che questo seminario, se ha un difetto, è quello di essere estremamente faticoso, perché siamo qui da lunedì mattina a dibattere dei temi di politica interna, di politica internazionale, su queste due grandissime figure che hanno effettivamente segnato un periodo storico, tanto che, come ricordavo nelle brevissime parole di introduzione, gli storici parlano ormai di un'era Adenauer, di un'era De Gasperi, i cui problemi però non sono della preistoria, ma sono estremamente vivi e ancora cruciosi e attuali per il mondo presente. Lo ringrazio, lo saluto a nome vostro e prego l'onorevole Kessler. Ma dunque, brevissimamente, prima di tutto per rivolgere a tutti voi un saluto ed una scusa, perché è la prima volta, per la verità, che in tutti questi anni che abbiamo svolto seminari autunnali sono stato assente all'inizio. L'Istituto Trentino di Cultura era comunque rappresentato dal vicepresidente, dal dottor Jos Bernardi. Non ho voluto però essere assente, nel momento che almeno un momento mi è venuto fuori, ho voluto essere qui per dare a tutti voi un saluto, a tutti voi che partecipate a questo seminario, ed in modo particolare un saluto ed un vivissimo ringraziamento che vi sarà già stato rivolto dal dottor Bernardi, ma che desidero rinnovare ai relatori e agli organizzatori di questo convegno, di questo seminario, di cui dire che è importante è dire una cosa ovvia forse, ma per confermare l'importanza anche dei temi che qui vengono trattati e che da questo punto di vista io mi augurerei veramente, mi auguro, oltre che il successo del seminario, mi auguro che con la pubblicazione degli atti possano raggiungere anche, come dire, aree più vaste, più larghe di quelle che il seminario qui naturalmente può raggiungere. E questo proprio per una valutazione che Corsini già ha fatto e della quale io sono, e non da ora, pienamente convinto e fortemente convinto, che proprio dalla conoscenza un po' approfondita, anche se non da tecnici come siete voi, ma da parte dei politici, delle vicende che sono state, che sono l'origine ancora della era politica nella quale noi operiamo, dalla conoscenza di queste nasce per noi un grande vantaggio e soprattutto è indispensabile ed è necessario conoscere almeno qualche cosa, non ripeto da tecnici come voi, ma conoscere di più di quello che conosciamo. Quindi proprio per questo penso che da un lato questo seminario è importante e dall'altra penso che può rappresentare un contributo notevole sul piano, come dire, politico, in senso più nobile, un contributo culturale alla vicenda politica che certamente ancora oggi vive e ancora oggi è quasi, vorrei dire, se non nello stesso, in un analogo travaglio di questa Europa, di quello che sostanzialmente è stato vissuto dall'era sulla quale oggi voi studiate e vi approfondite. Quindi proprio per questo mi auguro che questo seminario abbia successo e che, ripeto, soprattutto si trovi il modo anche di renderlo poi più utilizzabile e sfruttabile fuori sul piano anche della più ampia informazione politica. Ecco. Quindi grazie e scusateci di questa partecipazione più simbolica che reale, ma abbiate per certo che noi siamo convinti, come dico, dell'importanza e ci siamo grati anche di questo lavoro duro che state facendo in questi giorni, che è un lavoro che fate voi, per voi, eccetera, ma è un lavoro che fate anche per tutti e dal quale speriamo, ci auguriamo e ci sforzeremo di trarre anche noi tutti i vantaggi che sono possibili. Ecco, grazie. Lieber Staatssekretär Kessler, für die deutschen Teilnehmer darf ich Ihnen für Ihre herzliche Begrüßung, die Herr Kessler nicht zu Beginn des Seminars bringen konnte, weil er dann noch in Mexiko war, sehr herzlich danken. Wer die Geschichte dieses Instituts hier kennt, dass Herr Kessler, wenn ich es einmal sehr vorsichtig ausdrücken will, zweifellos nicht zu den Geringsten gehört, die an der Gründung dieses Institutes wesentlich beteiligt sind. Und er hat in sehr lebhaften und herzlichen Worten ja auch gesagt, dass er sonst bei allen Seminaren bei der Anfangssitzung dabei sein konnte, diesmal nicht, und dass ihn dies besonders schmerzt, weil gerade dieses Thema ihn natürlich und als Politiker besonders interessiert. Er hat dann auch die Hoffnung ausgedrückt, die, glaube ich, hat seinen Dank ausgedrückt an die Vortragenden, an die Teilnehmer hier und hofft, dass sehr bald auch die Akten dieses Seminars publiziert werden können, die ja nicht nur für die Spezialisten und die Fachleute, sondern auch allgemein für die Öffentlichkeit und für die Politik nicht ohne Bedeutung seien, denn er meint, es wäre den Politikern gar nicht schlecht, wenn sie auch die und der Politik, die sie machen, gar nicht schlecht, wenn sie auch über die jüngste Vergangenheit und gerade über eine so grundsätzliche Frage noch für die heutige Tagespolitik wie die politischen Entscheidungen und Ereignisse der Ära de Gasperi und der Ära Adenauer etwas besser informiert wären, als sie es jetzt sind. Er hat seiner Hoffnung Ausdruck gegeben, dass die weiteren Arbeiten unseres Kongresses sich erfreulich weiterentwickeln. Wir haben ja auch eine sehr große Aussicht, dass wir heute Nachmittag einmal einige Stunden Pause haben. Wir sind nämlich allmählich auch schon an den Rand unserer, jedenfalls kann ich das von meinen schwachen Kräften sagen, so allmählich merkt man, dass die menschlichen Kräfte doch begrenzt sind, sodass wir also dann morgen und übermorgen, wenn wir noch einen sehr anstrengenden Tag haben, den Rest gut bewältigen werden. Ich darf Ihnen aber versichern, Herr Kessler, dass nach dem übereinstimmenden Urteil der deutschen Teilnehmer, das ich gehört habe, wir alle sehr glücklich und sehr zufrieden sind. Es läuft besser, könnte es kaum laufen. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass wir hier sein dürfen. Wir sind noch nicht am Schluss des Seminars, da wird davon noch einmal zu sprechen sein. Aber ich möchte gerade auch, wenn Sie hier sind, noch einmal betonen, was ich einleitend am Montag schon gesagt habe. Wir Deutsche sind ja hier Ihre Gäste. Wir leben hier als Ihre Gäste und es ist schön, hier als Ihr Gast zu leben. Herzlichen Dank. speriamo che i nostri ospiti stiano bene. Ecco, con permesso che mi devo assentare, sì, ma spero sì, prima sì, la conclusione del seminario degli interni ancora intrattenere un momento con voi. Arrivederci, buongiorno. Capitolo 3. Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Le origini del piano Schuman non sono più avvolte dal mito con cui la letteratura europeistica ha presentato per molto tempo il teatrale annunzio che ne fece alla stampa il ministro degli esteri francese il 9 maggio 50. Ora sappiamo dalle memorie di Adenauer, da quelle di Jean Monnet, dall'esiguo volumetto dello stesso Schuman e dai documenti diplomatici americani che esso rappresenta la conclusione di un negoziato che si svolse a partire dalla firma dell'Alleanza Atlantica, aprile 49, un negoziato che durò quindi 13 mesi. Ne troverete un cenno nella relazione scritta che qui ometto per limitarmi al ruolo dell'Italia. Nessun contributo l'Italia dette e poté dare alla elaborazione del piano Schuman, non che ne mancasse la volontà, ne mancarono certamente i mezzi. Significativo dell'atteggiamento di De Gasperi è il discorso, in Italia non conosciuto, che tenne ad alcuni parlamentari americani in visita a Roma ai primi del novembre 49. È rilevato che il passo con cui si camminava verso l'unità europea era troppo lento, De Gasperi rivolse un appello agli Stati Uniti nella convinzione che fosse l'unico paese in condizione di convincere gli europei e chiarì che gli Stati Uniti non avrebbero dovuto esitare ad usare mezzi di pressione, cioè a limitare i presenti aiuti economici, disse De Gasperi, e i futuri aiuti militari che venivano concessi in applicazione dell'Alleanza Atlantica per persuadere i paesi europei ad una più stretta collaborazione. Era naturalmente tenuto al corrente di questo negoziato che, per quanto segreto, non sfuggiva all'attenzione del migliore ambasciatore che l'Italia aveva in quel tempo, Quaroni, da Parigi, il quale gli segnalava gli sviluppi e le difficoltà che questo negoziato incontrava. E in un momento estremamente cruciale, dell'aprile del 50, un mese quindi dalla sua conclusione, De Gasperi colse l'occasione di un incontro europeo proprio per rivolgere un pubblico invito. Rivolgo un amichevole appello ai nostri amici di Francia e di Germania, che lì era il problema. Li prego di fare presto e di vedere lontano. Bisogna superare le barriere del passato in nome del futuro europeo, in nome della salvezza comune. Ricevuta ufficialmente la proposta del piano Schuman, il 9 maggio il governo italiano fu naturalmente il primo a dare la sua adesione ufficiale. Ometto qui tutto il negoziato che si svolse, rilevando, e che troverete nella relazione, rilevando semplicemente alcuni punti. La delegazione italiana fu l'unica nel negoziato, nella cosiddetta conferenza per il piano Schuman, ad essere guidata non da un tecnico, ricordo che il negoziatore tedesco era Hallstein, ma da un politico. Un politico, Taviani, Paolo Emilio, nota Monnet nelle sue memorie, un giovane deputato uscito dalla macchina democristiana, che ovviamente, unico politico fra tanti tecnici, incontrò delle difficoltà. Difficoltà dovute anche al fatto che, per quanto le istruzioni che aveva ricevuto fossero state estremamente chiare, non furono evidentemente da lui interpretate in tutto il loro valore. Queste istruzioni, che leggerò ora, sono fondamentali proprio per testimoniare quello che è stato l'atteggiamento di De Gasperi nei confronti del piano Schuman. C'era scritto in queste istruzioni: nel piano Schuman noi ravvisiamo il primo serio tentativo di avere nell'Europa moderna un'autorità sovranazionale. Questo fatto, insieme alla possibilità di eliminare una volta per tutte quel dissidio franco-tedesco che fu causa di tante guerre, costituisce una delle maggiori garanzie del momento attuale. L'Italia ha tutto da guadagnare dalla pace e tutto da rischiare con la guerra. Così deve favorire quanto più può il piano Schuman. Dobbiamo assumere un atteggiamento lealmente europeo. Se saranno gli altri a deformare il piano in senso nazionale, il nostro atteggiamento naturalmente dovrà cambiare. Ma è essenziale che su questa via non siamo noi a prendere l'iniziativa. La seconda difficoltà al negoziato venne per alcuni problemi relativi ai paesi del Nord Africa, territorio dell'Algeria soprattutto, considerato dalla Costituzione francese come parte del territorio metropolitano, e quindi si discusse se doveva entrare o no. Era un problema politico, era un problema di politica di decolonizzazione, diciamo. E ahimè, allora il governo italiano sostenne la tesi che l'Algeria doveva far parte della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, contro il parere dei tedeschi, che invece non volevano essere coinvolti in problemi di carattere coloniale. L'ultima fase del negoziato si svolse direttamente tra i ministri degli esteri. Partecipò Sforza ed ebbe l'unica istruzione di far sì che un italiano fosse presente nell'alta autorità, cioè nell'organo di governo della CECA, per paura che ne fossimo estromessi, paura rivelatasi poi del tutto infondata, perché nessuno aveva interesse ad evitare questa partecipazione italiana. Nacque così il 18 aprile 41, il 21 aprile 51 il trattato CECA. Se nel corso del negoziato, come appare chiaramente dalle istruzioni date a Taviani, il governo italiano dette il suo pieno e convinto contributo, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda la ratifica del trattato, che gli avrebbe consentito di entrare in vigore. La ratifica del Parlamento italiano giunse per ultima, e non per colpa solo dell'opposizione socialcomunista. Contribuirono al ritardo le resistenze degli ambienti industriali italiani, nettamente ostili a questa comunità, sia il risorgere del tentativo di legare la ratifica alla soluzione del problema di Trieste. Comunque, finalmente questa ratifica arrivò, ed è qui importante ricordare come De Gasperi, dopo il discorso del negoziatore ufficiale, cioè dell'onorevole Taviani, e avendone avvertito qualche debolezza, sentì la necessità di intervenire e disse: il progetto di cui ci occupiamo è stato alimentato da parecchie ragioni di carattere economico, ma di esse una è stata essenziale: trovare la strada per impedire la minaccia della rinascita del militarismo germanico e rimediare all'errore commesso ai tempi di Poincaré, quando si credette, attraverso l'occupazione della Ruhr, di giungere ad una conclusione e si creò invece la base per il risorgere dell'industria che portò alla Seconda Guerra Mondiale. Questo è l'unico discorso parlamentare che De Gasperi fece durante la trattativa e durante la ratifica, perché non dedicò alla CECA molta attenzione, perché la sua attenzione fu completamente assorbita dal nuovo problema, dal nuovo trattato che si delineava, quello per la costituzione della Comunità Europea di Difesa. E infatti, mentre la trattativa cominciò il 20 giugno del 50, sapete che il 25 giugno ebbe inizio la guerra di Corea. Pastorelli hat das dritte Kapitel nur sehr gerafft vorgetragen, die ausführlichere Begründung wird sich im gedruckten Text dann später finden. Er geht davon aus, dass durch die inzwischen veröffentlichten Quellen, Adenauer-Memoiren, Monet-Memoiren, amerikanische Akten und so fort, der Mythos, als ob der Schumann-Plan seine Entstehung der berühmten Rede vom 9., also vom 5. Jahrestag des Kriegsendes, des Zweiten Weltkrieges, seinen Anfang genommen hat, falsch sei. Diese Rede des französischen Außenministers Schumann hat nicht den Schumann-Plan ins Leben gerufen, sondern war die Konsequenz 13 Monate langer interner Verhandlungen der Staaten untereinander, wobei die italienische Haltung von vornherein eine volle Bereitschaft zur Hilfe, zur Zustimmung ist. De Gasperi hat zum Beispiel in der Phase vor der Schumann-Rede einmal den Vereinigten Staaten geraten, sie sollten die Wirtschaftshilfe an die Europäer nicht einfach geben, sondern an schärfere Bedingungen knüpfen, dass mit der Wirtschaftshilfe Konsequenzen, politische Konsequenzen gezogen würden. Er hat dann noch von der politischen Tätigkeit des italienischen Botschafters Quaroni, der ja auch zweimal bei uns in Bonn als Botschafter gewesen ist, gesprochen, der diese Politik in Frankreich unterstützt hat. Italien ist der erste Staat gewesen, der dann der offiziellen Einladung zum den Schumann-Plan-Verhandlungen amtlich zugestimmt hatte. Die italienische Delegation wurde jedoch nicht von einem Beamten geführt, sondern von einem jungen Abgeordneten Taviani, der wie Monet in seinen Memoiren etwas maliziös gesagt habe, ein Produkt der Parteimaschine, des Parteiproduktionsapparates der Demokratia Christiana gewesen sein. Und das ist also ein Bonmot, mit dem weiß Gott nun nicht alles über Taviani gesagt werden kann. Jedenfalls nach Herrn Pastorelli hat Taviani von seiner Zentrale in Rom sehr klare Instruktionen bekommen, während er meint, dass diese klaren Instruktionen nicht mit der gleichen Klarheit auch ausgeführt worden sei, wenn ich sie richtig verstehe. Er hat dann die einzelnen Schwierigkeiten geschildert, die sich ergaben. Italien für De Gasperi war sehr entscheidend in dieser Situation, dass dass die Montanunion der erste Schritt sei, welche Institutionen schaffe, die eine Fortdauer der französisch-deutschen Erbfeindschaft verunmöglichen. Also völlig der gleiche Aspekt, den auch Adenauer in diesem Zusammenhang gesehen hat. In der Frage Einbeziehung oder Nicht-Einbeziehung der französischen Kolonien in Nordafrika, die ja nach französischem Verfassungsrecht einen Teil des Mutterlandes bildeten, hat Italien sich für den Einschluss ausgesprochen, Deutschland bekanntlich nicht. Zum Schluss ging es noch darum, ob Italien in der hohen Behörde vertreten sein sollte oder nicht. Die Ratifikation hingegen, während Italien also bei den Verhandlungen als Erster dabei ist, bei der ratifiziert worden ist der Vertrag italienischerseits erst als letzter. Und da meint Herr Pastorelli, das ist weniger Ergebnis der zweifellos heftigen Opposition der beiden Linksparteien, des Partito Comunista Italiano und der Sozialistischen Partei, sondern es ist, weil einmal von Seiten italienischer Industrieorganisationen, müssen wir besser sagen, Schwierigkeiten gemacht wurde, weil zweitens das Problem Triest und die Lösung der Triest-Frage sich in den Vordergrund drängte. Und es ist interessant, dass De Gasperi nur ein einziges Mal, nämlich bei der Ratifizierungsdebatte im italienischen Parlament nach der Rede des Berichterstatters Taviani, die ihm ergänzungsbedürftig zu sein schien, weil sie einige Schwächen in der Begründung gezeigt hatte, sich selbst dazu geäußert hat. Die Begründung dafür, De Gasperi hat hier ausgeführt, hat sich für den Vertrag gesagt, und jetzt haben wir endlich die Grundlage gefunden, die den Fehler Poincarés verhindert, Poincaré hat gemeint, Frankreich kann gesichert werden vor Deutschland, der deutsche Militarismus, die deutsche Aufrüstung kann verhindert werden, wenn wir die Ruhr besetzen. Das Gegenteil ist eingetreten. Wir müssen nicht die Ruhr besetzen, sondern müssen die Ruhr mit der lothringischen Industrie zusammenführen. Das ist die Garantie. Und er sagt dann, und damit hat er schon die Überleitung zu seinem vierten Kapitel begonnen, er sagt, das Hauptinteresse de Gasperis in diesen Jahren sind die Verhandlungen über die europäische Verteidigungsgemeinschaft. Schließlich darf man nicht vergessen, dass seit dem Juni 1950 der Koreakrieg begonnen hat. Allora, ultimo capitolo, quarto e ultimo finalmente. Comunità europea di difesa. Il 25 giugno 50, l'inizio della guerra in Corea impresse una drammatica attualità all'esigenza di migliorare il sistema difensivo europeo. Il pericolo che si delineava per il futuro era quello di una crisi simile in Germania, cioè nell'altro stato diviso come lo era la Corea. Di fronte a questa prospettiva, che cosa faceva l'Europa? Chiese De Gasperi. Veramente, scrivendone a Sforza il 30 luglio, diceva: se il Consiglio d'Europa non prende questa volta una sua fisionomia, è la sua morte civile. E Sforza raccolse l'invito e all'Assemblea di Strasburgo si fece promotore di una mozione che annullava il divieto che c'era nello Statuto di parlare di questioni militari, salvando, scrisse Sforza riferendone a De Gasperi, il Consiglio d'Europa dal ridicolo. Ne approfittò Churchill, deputato inglese solo a quel tempo, per presentare il 10 agosto un progetto che prevedeva la costituzione di un esercito integrato europeo. E ottenne che questa sua proposta si traducesse in una raccomandazione dell'Assemblea. Nel frattempo anche gli americani proposero una loro soluzione al problema, una soluzione ufficiale. Avvenne nella sessione del Consiglio Atlantico che si tenne a New York a partire dal 15 settembre del 1950. Il piano Acheson, come si chiamò, prevedeva l'impegno degli Stati Uniti per un aumento molto considerevole delle loro forze in Europa e la proposta di difendere l'Europa non sul Reno, come avveniva nei piani applicati fino allora, ma sull'Elba, a condizioni però che, primo, anche gli europei dessero il loro contributo, costituendo una forza integrata con i loro eserciti sotto comando unico, e che a questa forza integrata partecipassero divisioni tedesche. Sforza accolse con calore la proposta di Acheson, pur senza impegnarsi, non avendone le possibilità, e giustificò questo suo interesse con due ragioni. Trovava il piano Acheson estremamente organico, perché, disse durante le riunioni, una linea sull'Elba con una Germania artificialmente neutrale e in realtà ostile sarebbe cosa impensabile. Ma la seconda ragione era la carica europeistica della proposta di Acheson. Scrivendone a De Gasperi diceva: con un tipico metodo empirico si cerca di fare l'Europa senza dirlo. De Gasperi convocò immediatamente il Consiglio dei Ministri e gli fece arrivare l'approvazione ufficiale del governo italiano all'adesione al piano Acheson. È noto che invece i francesi reagirono in maniera estremamente negativa, disse Schuman, non potremo mai far passare in Parlamento un provvedimento che autorizzi un tedesco a rimettersi in divisa. Erano naturalmente riserve molto comprensibili e la sessione del Consiglio Atlantico si sciolse, dando mandato ai francesi di fare una proposta alternativa. Questa è l'origine del cosiddetto piano Plevin, dalla proposta che ancora una volta Jean Monnet elaborò. Si trattava di ricopiare il piano Schuman che aveva messo in comune il carbone e l'acciaio per mettere in comune le forze armate tra i paesi europei. Il piano fu presentato il 24 ottobre dal presidente del Consiglio francese Plevin di fronte all'Assemblea nazionale che approvò il piano. L'accoglienza che a questo piano fu fatta da Acheson, ma soprattutto da Marshall, che ancora una volta era tornato alla ribalta politica americana come segretario di Stato alla difesa, fu sostanzialmente negativa. In linea teorica la controproposta francese si conciliava assai bene, era anzi un ulteriore sviluppo dell'idea fondamentale che era la base del patto atlantico, un ponte che fondato su due piloni, quello americano e quello europeo unito. In linea pratica però l'inquadrare le unità tedesche in un esercito europeo ancora da costituire per forza di cose non a brevissima scadenza, anziché costituire subito divisioni tedesche e metterle a fianco delle altre divisioni nazionali dei paesi europei in una forza integrata, aveva l'inconveniente di far trascorrere molto tempo prima del riarmo tedesco. E in effetti questo aspetto del piano francese fece sorgere il sospetto che i francesi tendessero non a risolvere il problema, ma a rinviarlo sine die. De Gasperi invece non ebbe questo dubbio, credette alla volontà europeistica del governo francese e in Parlamento con un discorso approvò esplicitamente subito il piano Plevin. Egli disse: è strumento decisivo di solidarietà europea, un patto di difesa comune con un esercito al servizio di tale patto, e siamo favorevoli ad ogni sforzo che tenda sinceramente a costituire tale solidarietà. Riteniamo che esso debba essere un baluardo permanente della nostra civiltà e l'armatura stabile, cioè l'intelaiatura stabile dell'Europa. Per il governo italiano si pose tuttavia un problema di compatibilità tra piano francese e piano americano, reso più spinoso dal fatto che gli americani condizionavano in questo caso l'aumento delle loro forze in Europa all'approvazione del loro piano. Si raggiunse comunque una linea mediana che fu quella poi seguita da tutti i paesi. Nella riunione che il Consiglio Atlantico tenne a fine anno a Bruxelles, il contrasto franco-americano, che metteva in particolare imbarazzo la Germania, fu composto solo superficialmente, alla superficie, provvisoriamente, perché si approvò il progetto americano per costituire la forza integrata ed il comandante unico che fu Eisenhower, e nacque allora la NATO. Ma per quanto riguardava il riarmo tedesco, se ne accettò semplicemente l'idea in linea di principio, rinviando ad ulteriori discussioni la soluzione del problema. Era un problema che vedeva divise non solo le forze politiche in Italia, ma anche i partiti della stessa coalizione governativa e gli stessi membri del governo. Abbiamo ora una testimonianza estremamente significativa. Il ministro della difesa, Pacciardi, c'è nelle corrispondenza di De Gasperi, dedicò 4 pagine di una sua lettera per dimostrare come era esiziale per l'Italia associarsi al riarmo della Germania. De Gasperi e Sforza comunque rimasero della loro idea e la fecero naturalmente prevalere in Consiglio dei Ministri. E incontrandosi con i colleghi francesi nel febbraio del 51, De Gasperi poté assicurarli che avrebbe collaborato con loro nella realizzazione del piano, soprattutto per vedere, egli disse precisamente, se la struttura dell'esercito europeo potesse diventare una base permanente per gli Stati Uniti d'Europa. L'Italia quindi accettò di partecipare a questo nuovo negoziato europeo immediatamente. Il problema per uno sviluppo positivo del negoziato era naturalmente un problema politico legato al perdurare del dissidio franco-americano che rendeva impossibile per la Germania di prendere una decisione se accettare o non accettare il piano. Accettandolo litigava con gli Stati Uniti, non accettandolo litigava con la Francia. E qui intervenne ancora una volta Monnet per spiegare agli americani che la forza dell'Occidente non si basava sul numero delle sue divisioni, ma sulla sua unità morale e sulla volontà comune. Il primo fra gli americani a cogliere il valore positivo di questa osservazione di Monnet fu Eisenhower, facilitato dal fatto che ormai da 6 mesi viveva a Parigi e si rendeva conto dell'esistenza di questo grave problema. E fece un celebre discorso il 3 luglio del 51 in cui disse che come comandante della NATO, ma anche come americano, riteneva che la soluzione proposta dai francesi fosse senz'altro accettabile. Questo spianò la via al negoziato e alla fine di luglio si raggiunse un primo accordo su uno schema. Questo schema naturalmente andava riempito di tutte quelle parti più specificamente politiche che sarebbero state trattate direttamente dai ministri degli esteri. Era allora in atto una crisi, si parlava di rimpasto, cioè di sostituzione solo di alcuni ministri. De Gasperi alla fine, per una serie di motivi, preferì la crisi di governo e la costituzione del suo 7° ministero il 26 luglio del 1951, dal quale estromise Sforza, congedandolo alquanto bruscamente. È vero che e assunse direttamente il Ministero degli Esteri per trattare lui la questione della Comunità Europea di Difesa nella prospettiva dell'unificazione europea. È vero che De Gasperi era sempre stato il Ministro degli Esteri di se stesso, perché nei 3 mesi in cui c'era stato Nenni non aveva contato nulla. E nei quasi 5 anni in cui a Palazzo Chigi c'era stato Sforza, aveva contato quanto Nenni, in quanto De Gasperi aveva preso non solo tutte le decisioni di competenza del Presidente del Consiglio, ma aveva continuato a mantenere i rapporti lui personalmente con i rappresentanti diplomatici stranieri, lasciando al Ministero degli Esteri e al Ministro degli Esteri solo quello che si chiama il lavoro di routine. Ma adesso, come al tempo della conferenza della pace, occorreva trattare direttamente e personalmente con i colleghi stranieri le questioni. Il negoziato era giunto in effetti ad un momento estremamente delicato, soprattutto per la parte italiana. L'opposizione dei militari, espressa all'inizio dal Ministro della Difesa, adesso era addirittura esposta in una sede non competente. Era il capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Marras, che scrisse direttamente a De Gasperi per attestargli l'ostilità di tutti i militari a lasciare la loro bandiera, a lasciare la loro divisa e tutti i problemi che naturalmente più importanti che il trattato per la Comunità Europea di Difesa avrebbe comportato. Ma contro il trattato si schierarono anche tutti i tecnici del Ministero degli Esteri, affidandosi e facendo leva sugli argomenti di carattere economico. Cito solo una frase di un promemoria: il problema è quello di superare la contraddizione fra un'organizzazione della difesa radicalmente unificata e regimi economici, finanziari e monetari ancora completamente separati. E Sforza, negli ultimi giorni in cui era stato Ministro degli Esteri, aveva appunto dato istruzioni che De Gasperi non aveva approvato di imporre un rallentamento nel negoziato. De Gasperi invece lo riprese, divenuto Ministro degli Esteri, decisamente nella direzione indicata nel febbraio a Plevin, durante cioè esercito europeo come base dell'Unione Europea. E cominciò a studiare attentamente il problema per vedere come tradurre in termini pratici questa formula. La letteratura europeistica sostiene che le idee gliele fecero maturare i federalisti, da Spinelli a Rogati, eccetera. Io ho qualche dubbio in proposito. Secondo quello che ho potuto vedere, ebbe un'influenza determinante il secondo viaggio che De Gasperi compì da ministro degli esteri, questa volta negli Stati Uniti, proprio in occasione di una delle riunioni del Consiglio Atlantico, nel settembre 51. L'oleografia ufficiale presenta questo viaggio come un successo anche maggiore di quello ottenuto dal più celebre viaggio del gennaio del 47. In realtà non fu così, lo sappiamo bene proprio da uno scambio di corrispondenza fra De Gasperi e Tarchiani. De Gasperi dovette misurare in quella occasione quanto, al di là della cortesia e della cordialità ufficiali, erano mutati i rapporti nella sostanza tra l'Italia e gli Stati Uniti dal 47 in poi. E come l'Italia per la soluzione dei suoi problemi avesse ora assoluto bisogno dell'Europa, dei suoi amici alleati europei. Quando ebbe finalmente maturato il suo progetto, scelse non il tavolo della trattativa con gli amici europei per presentarlo, ma volle farlo in una sede tipicamente europea, il Consiglio d'Europa a Strasburgo, dove tenne il più celebre discorso europeistico della sua carriera, 10 dicembre 51. Io nella relazione ne riporto vari brani, ma quello essenziale è questo. Se noi chiamiamo le forze armate dei diversi paesi a fondersi insieme, in un organismo permanente e costituzionale, e se occorre a difendere una patria più vasta, bisogna che questa patria sia visibile, solida, vera, sia, dirà in un discorso seguente, la nostra patria Europa. Anche se non tutta la costruzione è perfetta, occorre che sin da ora se ne vedano le mura maestre. E concluse. Occorre quindi creare uno stabile ponte fra nazioni separate spesso nel passato da un abisso nel quale è precipitata tutta l'Europa. E per creare questo ponte è evidente che il primo e principale pilastro deve essere rappresentato da un'assemblea, da un corpo elettivo e deliberante che rappresenti direttamente i popoli. Era la proposta di introdurre nello schema delle istituzioni della Comunità Europea di Difesa una assemblea e di dotarla per di più di un potere costituente, cioè di elaborare la Costituzione della Federazione Europea. Queste idee di De Gasperi furono approvate e costituirono l'articolo 38 del trattato CED. Non mi soffermo su altri aspetti del negoziato meno importanti e lo diamo per concluso. Il 27 maggio del 52 questo secondo vero trattato europeo era firmato. Un mese dopo, finalmente con il deposito della ratifica da parte italiana del primo trattato, entrò in vigore la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Anch'essa aveva un'assemblea diversa da quella prevista dal trattato CED. E De Gasperi ebbe questa idea. Perché non affidare subito a questa assemblea, quella del trattato CECA, il compito che il trattato CED assegnava alla propria assemblea, dato che era formato in modo quasi analogo e i rappresentanti con elezioni di secondo grado, cioè con rappresentanze dei parlamenti nazionali in questo Parlamento, in questa assemblea, non Parlamento, della comunità. Si sarebbe risparmiato tutto il tempo necessario per la ratifica. Sottopose l'idea a Schumann, Schumann la trovò interessante e se ne fecero entrambi promotori presso gli altri membri della comunità europea del carbone e dell'acciaio. In effetti in quel momento estate del 52, non mancavano elementi che inducevano all'ottimismo per la costruzione europea. Intanto, finalmente, la nascita della prima comunità e l'inizio del suo operare, che era stato capace di suscitare degli entusiasmi. In secondo luogo, l'eco positiva delle cosiddette clausole federalistiche incluse nel trattato CEDE. Infine, un elemento politico di importanza notevole, il riavvicinamento della Gran Bretagna all'Europa. Le elezioni dell'ottobre 51 avevano riportato al potere il partito conservatore, Churchill era tornato ad essere primo ministro, era il Churchill di tanti discorsi europeistici che si sperava non avrebbe mancato di tradurli in fatti. Fu presentata quindi la proposta di accelerare i tempi per la costruzione dell'Europa e questa fu approvata nella conferenza del Lussemburgo il 10 settembre del 1952. La politica europea di De Gasperi toccò qui il suo apice. Tornato a Strasburgo, pronunziò all'Assemblea un nuovo discorso per esprimere la sua soddisfazione. Passò poi in Germania e ricevette, come è noto, ad Aquisgrana il 24 settembre il premio Carlo Magno, che dette lo spunto ad un altro discorso sulle idee formative dell'Europa. Questo di Aquisgrana concluse il ciclo dei grandi discorsi europeistici di De Gasperi e segnò anche la fine della sua azione concreta in favore dell'unificazione europea. Il Parlamento di Strasburgo, che aveva sede in comune con quello dell'Assemblea ceca, produsse il progetto di Costituzione entro i termini che gli erano stati fissati, ma i governi non furono capaci di dar seguito a questo progetto perché nel frattempo non erano in grado di assicurare la ratifica del trattato CEDE. I casi cruciali erano due, non uno. Quello del Parlamento francese e quello del Parlamento italiano. Il governo di Parigi attese fino al gennaio 53, quindi attese 7 mesi, per presentare il trattato all'Assemblea, ma non diversamente agì il governo italiano, che pure non aveva, come quello francese, il problema di trovare una maggioranza favorevole alla ratifica. La ragione essenziale del ritardo nell'impegnare il Parlamento a dare il suo voto fu costituita dalla battaglia per la nuova legge elettorale, che assorbì tutta l'attenzione di De Gasperi facendo di fatto passare in secondo piano anche la politica europeistica che aveva costituito nell'ultimo anno di governo una delle direttive fondamentali della sua azione. Ma nel ritardo influì anche la questione di Trieste, la cui soluzione venne ancora una volta legata alla ratifica del trattato CEDE. Si perdurava insomma in quella concezione secondo la quale ogni volta che l'Italia doveva far qualcosa che toccava uno dei tre paesi da cui dipendeva la sorte di Trieste, fosse giusto e naturale pretendere in cambio la contropartita di Trieste. Tale concezione, come lo stesso Sforza a suo tempo aveva rilevato, trascurava di considerare una circostanza essenziale, che l'Italia non aveva nulla da dare ai suoi alleati e amici che non interessasse in misura molto maggiore se stessa. Alla ratifica del trattato CED erano naturalmente interessati anche gli Stati Uniti, perché era rimasto in sospeso il problema del riarmo della Germania. Il segretario di Stato americano venne a Roma nel marzo del 1953 e De Gasperi gli rispose che il problema era solo francese, al che John Foster Dulles ebbe facile la risposta: se non c'è problema nel Parlamento italiano, ratificate. Questo potrà influire positivamente sulle discussioni che si svolgono in Francia. De Gasperi non prese impegni precisi, ma alla fine di marzo fu costretto ad annunziargli che non c'era più tempo, dato l'ostruzionismo parlamentare che c'era stato per l'approvazione della legge nuova legge elettorale, non c'era più tempo per proporre alla ratifica il trattato CED. Il mancato scatto del premio di maggioranza nelle elezioni del giugno 1953 segnò la fine, come è noto, del governo De Gasperi, che lasciò anche il Ministero degli Esteri il 17 agosto con la caduta del suo ottavo ministero. Tra i rimpianti di De Gasperi ci fu senza dubbio anche quello di non essere riuscito a condurre a termine la sua politica europea. Quando disporremo delle sue carte, disporrò io perché c'è chi ne dispone, si potrà vedere fino a quale punto la politica europea fu tenuta presente ed interagì sulle decisioni di politica interna dalle quali dipese poi la caduta di De Gasperi. Il collegamento che ora si vede porta a ritenere che De Gasperi si proponesse proprio dalla conferma di una larga maggioranza favorita dalla nuova legge elettorale di acquistare lo slancio necessario a proseguire l'azione europeistica dopo che si stava affievolendo lo slancio francese. Le elezioni quindi erano concepite in questo quadro europeo come una sosta per riprendere fiato e forza, furono invece l'interruzione del cammino. Fuori dal governo, De Gasperi continuò a seguire la questione della ratifica del trattato CED presso i suoi successori, Pella, Fanfani, Scelba, con una sollecitudine maggiore di quella che dimostrò, che aveva dimostrato, quando tale ratifica dipendeva dalle decisioni del governo da lui presieduto. La sollecitudine si mutò poi in angoscia quando ai primi di luglio seppe da Tarchiani, in una lettera personale, che gli Stati Uniti erano ormai stanchi di attendere questa ratifica e proponevano per la soluzione, il problema del riarmo tedesco, una soluzione diversa che avrebbe escluso l'Italia perché, dalle discussioni relative perché non aveva ratificato il trattato. La mia spina è la CED, scrisse in una nota lettera al segretario del partito Fanfani. Meno nota invece l'ultima lettera che De Gasperi scrisse il 14 agosto 1954, a 5 giorni dalla morte. Se le notizie che giungono sono vere anche solo per metà, ritengo che la causa della CED sia perduta e ritardato di qualche lustro ogni avviamento all'Unione Europea. Puoi immaginare, caro Fanfani, puoi appena immaginare la mia pena, aggravata dal fatto che non ho la forza né la possibilità di muovermi. Almeno per allontanare dal nostro paese la corresponsabilità di una simile iattura. Te ne ho già accennato nell'ultima lettera, la spina. Né comprendo perché il nostro partito, che pure nel congresso di Napoli ha definito in modo inequivoco la nostra visione del problema, non abbia creduto di dire una parola in codeste ultime vicende. Certamente avete avuto le vostre ragioni tattiche, che non conosco e da lontano non posso giudicare. Ciò che temo è che il governo si tenga in seconda linea, contando sulle reazioni degli altri e dando l'impressione di essere poco interessato alla vicenda. Se per De Gasperi la Comunità Europea di Difesa era divenuta una spina negli ultimi giorni della sua vita, lo era perciò non solo a motivo della Francia, ma anche per la coscienza che la sua conversione e il suo decisivo impegno per la causa europea non avevano ancora trovato convinti continuatori all'interno del suo stesso partito. C'è poi una breve conclusione. Non vi rallegrate troppo presto. Das Kapitel 4 questo è quello solito. È etwas ausführlicher geworden. Pastorelli geht aus von der Krise, die mit dem Beginn des Koreakriegs am 25. Juni 1950 beginnt, von der dramatischen Situation damals, wobei De Gasperi und Sforza sich einig waren, wenn jetzt bei dieser Situation der Europarat es nicht leistet. Das Problem war sofort die Frage der europäischen Verteidigung und damit zusammen der deutschen Wiederbewaffnung. Dann ist es praktisch gestorben. Churchill schlug im August 1950 ein integriertes europäisches Heer vor. Im NATO-Rat schlagen die USA im September 1950, legen sie den Aitchison-Plan vor. Der sagt, Verstärkungen der amerikanischen Präsenz in Europa, Schaffung eines alliierten und kombinierten Oberbefehls und Aufstellung eines deutschen Heeres, das über diesen alliierten Oberbefehl in die künftigen Bündnistruppen einbezogen wird. Italien hat diesem Aitchison-Plan zugestimmt. Gleichzeitig damit wird die Entscheidung getroffen, Europa soll nicht am Rhein, sondern an der Elbe verteidigt werden. Das heißt also, die Bundesrepublik ist ein Teil des zu verteidigenden Europas, ist nicht das Vorfeld. Gegen diesen Plan, dem der Außenminister zugestimmt hat, und zwar sowohl, weil damit Deutschland einbezogen würde, Sforza meint, Ausschluss Deutschland, Neutralisierung Deutschlands würde eine Gefahr für Europa bedeuten, weil diese Neutralisierung eben kein Dauerzustand, sondern ein Anfang des Gleitens in den sowjetischen Einflussbereich bedeuten würde. Es ist außerdem unter europäischem Aspekt zu bejahen. Dagegen ist nun die Schwierigkeiten in Frankreich, die dazu führen, den Plevent-Plan zu entwickeln, der von einem integrierten europäischen Heer ausgeht, wobei dann die Frage USA-Projekt, deutsches Heer mit alliiertem Oberbefehl oder französischer Plan die nächsten Diskussionen bestimmt hat. Im Prinzip hätten die Amerikaner den Plevent-Plan, fanden sie ihn sehr schön. Praktisch ging es ihnen darum, schnell die Wiederaufrüstung zu haben. Und genau das war hier war beim Plevent-Plan nicht möglich. Die amerikanischen Bedenken hat de Gasperi nicht geteilt. Ich will nun die einzelnen Phasen auch der internationalen Politik, wie es schließlich zum EVG-Vertrag gekommen ist, nicht wiederholen. Ich möchte nur eine Linie etwas zusammenfassend herausarbeiten, die mir für Herrn Pastorellis Auffassung sehr wichtig zu sein scheint. Er sagt, das Scheitern der EVG ist nicht nur, die EVG ist nicht nur in Frankreich, sie ist auch in Italien gescheitert. Und warum ist sie in Italien gescheitert? Sie ist in Italien gescheitert, einmal daran, also der Ablauf ist der, dass die italienische Regierung ebenfalls zunächst zögert, die Verträge dem Parlament zur Ratifikation vorzulegen. Die italienische Politik und die politische Kraft de Gasperis ist in diesen Monaten hauptsächlich absorbiert von der Frage der Änderung des italienischen Wahlgesetzes. Wir haben darüber ja, ich glaube, am Dienstag sehr ausführlich gesprochen. Das Wahlgesetz, das so verändert werden sollte, dass eine Partei, die im Verhältnis Wahlrecht 50% der Sitze bekommen hatte, noch zusätzliche Sitze bekommen solle. Wobei Pastorelli sagt, diese Wahlgesetzänderung von 1953 hatte auch den Zweck, nicht allein, aber auch den Zweck, eine Mehrheit für die Ratifizierung zu finden, und das Verfehlen der Mehrheit in den Wahlen, dann in den Juniwahlen von 1953, hat Rückwirkungen gehabt. Die Schwierigkeiten kamen in Italien von zwei Seiten. Einmal vonseiten des Militärs, die Generalität wollte nicht die Souveränität Italiens, die italienischen Farben, die italienischen, das italienische nationale, das gesamte nationale Bewusstsein, das Italien ist ja schließlich vom Heer geschaffen worden, das wollte ich nicht preisgeben für etwas Europäisches. Sie kamen aus der anderen, auf der anderen Seite vom, von der italienischen Diplomatie. De Gasperi hat im Juli 1951 den Außenminister Sforza binnen weniger Tagen abgelöst, weil er Weisungen geschrieben hat, erlassen hatte, man solle, Italien solle eine hinhaltende Politik betreiben, weil die Diplomaten im Auswärtigen Amt, im Außenministerium meinten, es ist ja völlig unmöglich, dass wir uns militärisch vereinigen, während wir wirtschaftlich und politisch noch gar nicht vereinigt sind. Das kann nicht funktionieren. Kommen dann die Ereignisse von 1953, die Wahlniederlage De Gasperis, der Versuch noch mit der Bildung eines letzten Kabinetts, der stand im September, muss er zurücktreten. Und schon sehr bald dann wird deutlich, dass die USA machen klar, wenn nicht EVG, dann werden wir auf der anderen Lösung, also mit deutschen Divisionen und einem selbstständigen deutschen Heer bestehen. Als Dallas 1953 De Gasperi sagt, warum ratifiziert ihr nicht, sagt De Gasperi, ja, das französische Parlament macht Schwierigkeiten, woraufhin Dallas erklärt, wenn das französische Parlament Schwierigkeiten hat, dann könnt ihr ja ruhig ratifizieren. Das wird dann auch die Ratifikation in Frankreich wieder erleichtern. Die Ratifikation bzw. das Ratifikationsverfahren erfolgt aber nicht aus dieser inneritalienischen Situation, die dann Herr Pastorelli zum Schluss noch mit einem längeren Zitat aus einem sehr beschwörenden Brief des schon todkranken De Gasperi in den letzten Tagen vor seinem Tode vom 14. August 1954 December an Fanfani richtet, indem er sagt, ihr habt zwar auf dem Parteikongress in Neapel einstimmig beschlossen, die EVG zu ratifizieren, aber praktisch getan habt ihr nichts. Ich kenne eure taktischen Überlegungen nicht, aber es gibt Situationen, so steht es nicht wörtlich, ich habe den Wortlaut nicht mitgeschrieben, so steht es nicht wörtlich in dem Brief, aber das ist sein Inhalt. Es gibt Situationen, in denen man nicht nur an Taktik denken kann, sondern in denen es um Grundsatzfragen geht. Und ich weiß nicht, ob ihr in diesen Grundsatzfragen das Eigentliche, was das Gebot der Stunde gewesen wäre, getan habt. Wobei Herr Pastorelli sagt, De Gasperi spricht in diesem Brief von einer Mitverantwortlichkeit Italiens am Scheitern der EVG. Und wenn die EVG scheitert, dann scheitert auch dann scheitert auch Europa. Wörtlich von einer Korresponsabilität hat er doch gesprochen. Und Pastorelli meint, nachdem er das zitiert hat, De Gasperi ist eigentlich mit seiner EVG in Italien gescheitert, weil er die politischen Kräfte, die hinter ihm standen, nicht stark genug, nicht deutlich genug davon überzeugen konnte, von seiner eigenen Überzeugung, dass es zur EVG keine europäische Alternative gäbe. Für De Gasperi gab es keine Alternative. Für die anderen gab es aber zumindest im Prinzip eine Reihe anderer diskutabler Alternativen oder Rücksichten. Und diese verhindern die Ratifizierung, wobei diese nicht italienische Ratifizierung auch zweifellos ihre Rückwirkungen wieder in der französischen Entscheidung gehabt hat. Jetzt möchte Herr Pastorelli noch einen kurzen Schluss, eine kurze Zusammenfassung geben. Non è un quinto capitolo, sono solo due parole di conclusione. Quali conclusioni dopo questa histoire événementielle si può giungere? Né padre dell'Europa né servo dell'imperialismo, ma direi che da osservatore estraneo di una realtà che pareva non esterno, di una realtà che pareva non interessare l'Italia, si mutò in deciso assertore dell'unificazione europea per il bisogno che l'Italia aveva della collaborazione europea per risolvere i suoi problemi di sicurezza, i suoi problemi economici e dare stabilità al sistema democratico parlamentare. Nelle idee ricostruttive, De Gasperi non aveva fatto cenno all'Europa, si parlava solo, per quanto riguardava la parte internazionale, di un aggiornamento della vecchia società delle nazioni, quindi un'idea di collaborazione generale internazionale. E possiamo riscontrare nell'atteggiamento iniziale nei confronti del patto di Bruxelles questa estraneità ai problemi europei. Le ragioni le ho già accennate, ma vorrei ritornare semplicemente su una. Non tanto la diversità delle esperienze vissute rispetto agli uomini degli altri paesi che si facevano banditori dell'Europa, ma che cos'era in sostanza questo comune patrimonio di civiltà che veniva invocato a principio unificatore? È, direi, la civiltà europea, ma filtrata da inglesi e francesi. C'è la tradizione romana e cristiana, ma rivissuta nello spirito della riforma, della rivoluzione scientifica, della rivoluzione costituzionale inglese, dell'illuminismo, della rivoluzione francese, dei sistemi democratici che in questi due paesi da lungo tempo esistevano. Una realtà questa che non era stata pienamente vissuta dall'Italia e dagli italiani. C'è poi la diversa situazione nelle quali le forze politiche italiane si trovano. Quelle che sono al governo e che rappresentano il paese nel dopoguerra, per quanto riguarda i socialcomunisti, non condividevano questi valori, questo patrimonio comune di civiltà, aspiravano a realizzare un modello diverso. Ma i cattolici non avevano avuto modo da parte loro di sperimentare come la posizione universalistica e neutralistica tipica del loro bagaglio ideologico era una politica già fallita di fronte ad una forza dinamica ed egemone come quella della Germania hitleriana, esperienza che le altre forze politiche della sinistra democratica e cattoliche avevano fatto nei loro paesi. E si erano resi conto che il problema della difesa e gli altri problemi di collaborazione non potevano essere risolti con dottrine, parole e teorie, ma solo con le alleanze, cioè con sistemi tradizionali e con l'unione degli europei occidentali. E a questa soluzione De Gasperi si avvicinò quando riscontrò effettivamente da realista, da politico realista qual era, che aveva sì il suo bagaglio ideologico e soprattutto il suo codice morale, ma che voleva risolvere i problemi politici con mezzi politici. C'è quindi questa trasformazione che vediamo compiutamente avvenuta in lui proprio nell'ultimo discorso, quello del 21 aprile 1954, in cui si avvicina nettamente a questo concetto del patrimonio comune della civiltà europea, quale si era solidificato alla metà del nostro secolo. Bisogna riconoscere, disse, che la vera e solida garanzia della nostra Unione consiste in una idea architettonica che sappia dominare dalla base alla cima. Vi pare che questa idea architettonica dominante non possa essere rappresentata dal solo concetto liberale sull'organizzazione e l'uso del potere politico? Né potrebbe bastare a questa costruzione la sola idea della solidarietà della classe operaia, per quanto non bisogna sottovalutare il contributo che proprio dall'umanesimo che si trova all'origine del movimento socialista può essere portato alla formazione dell'unità morale dell'Europa. e a queste due forze accoppiava, univa naturalmente l'idea cristiana. Questa conversione arriva alla sua maturazione completa in quella che ho definito la grande stagione europeistica dei discorsi, sì, ma contemporaneamente anche dell'azione concreta in favore dell'unificazione europea. C'è però in questa fase qualche neo. Lascia certamente perplessi il repentino abbandono del meccanismo che era riuscito a innescare, a mettere in moto con la decisione del Lussemburgo, per dedicarsi completamente al problema della legge elettorale italiana. Doveva certamente sapere che il Parlamento non avrebbe più avuto possibilità di discutere altre cose oltre quella e che sarebbe quindi saltata la ratifica del Trattato CED, almeno per il primo Parlamento repubblicano. C'è poi il problema del condizionamento tra politica europea e questione di Trieste, un condizionamento che, avete forse notato, è costante in tutta la politica europea di De Gasperi. Certamente sentiva molto il problema di Trieste e noi oggi non lo ricordiamo più, ma era il problema che più sentiva l'opinione pubblica. Il contributo quindi c'è stato, certo inferiore al mito, e si è impegnato di più De Gasperi in quella fase della costruzione europea che minori tracce ha lasciato sull'edificio dell'Europa che si sta costruendo. Si è più dedicato cioè alla CED che a quello che è stata la pietra angolare della costruzione europea, cioè il trattato CECA. Qual è stata la concezione dell'Europa? Quale Europa pensava De Gasperi? L'Europa funzionalista, cioè quella che si univa progressivamente per settori, secondo il processo che sta attualmente, sia pure lentamente avvenendo, oppure fu un federalista? Non ha seguito una linea precisa, per quanto nel suo fondo mi pare più federalista di quanto non sia pragmatico, cioè funzionalista. Certamente un problema dobbiamo porci, un interrogativo. In quale senso la carica federalista che dette per sua iniziativa al trattato CED, in quale misura cioè questa carica dette più forza ai sostenitori della politica europea o maggiore forza alle opposizioni? In sostanza, facilitò o meno la presenza dell'articolo 38, la ratifica o la non ratifica, come poi è avvenuto da parte del Parlamento francese? Non furono forse i francesi spaventati, non tanto dall'autorizzazione che si dava a mettere un tedesco in divisa, quanto piuttosto dalla cessione effettiva di sovranità che sarebbe avvenuta? Per parte mia ho l'impressione che l'essere voluti passare da una soluzione tecnica, qual era tutto sommato il piano Plevin, ad una più accentuata soluzione politica in senso europeo, per quanto logico sia stato questo processo, non abbia giovato in quel momento alla battaglia per la ratifica della CED e quindi per la costruzione dell'Europa unita. I processi storici, come quelli naturali, non fanno salti. Pastorelli hat zum Schluss in seinem Schlussteil noch einmal zusammenfassend versucht, was aus der ereignisgeschichtlichen Schilderung der ersten vier Kapitel sich ergeben habe. Er sagt, es ist klar, dass die bequemen Formeln Padre di Europa oder Servo di Imperialismo beides Legenden sind, über die zu reden sich nicht lohnt. Es ist klar, dass geworden dass es ein weiter Weg war für Italien von den großen Unsicherheiten hin zu dieser prononciert italienischen Politik. Es sei viel vom gemeinsamen Vaterland, vom gemeinsamen Erbe, Patrimonio Comune, Civita Europea gesprochen, aber er stellt die Frage, wo ist denn eigentlich in diesem gemeinsamen Europa der italienische Beitrag gewesen, ist dieses gemeinsame Europa nicht viel stärker geprägt worden von deutscher Reformation, von französischer Revolution, von englischer Revolution, von französisch-englischer und von Demokratie in England und in Frankreich? Wo ist der Beitrag, den Italien in seiner gelebten historischen Wirklichkeit hier hinzugebracht hat? Und stellt, sagt dann natürlich immer das Verhältnis Triest, das heute für uns heute als etwas, als eine Nebensache erscheint, hat damals eine viel größere Bedeutung gehabt und ist in allem hinzuzufügen. Die Bedeutung des Scheiterns der Wahlrechtsänderung von 1953 hat er noch einmal hervorgehoben und hat aber dann zum Schluss mit einer Frage geschlossen. Er hat gesagt, es gab zwei Möglichkeiten, es gab zwei Wege. Europa, auf Europa hinzugehen. Das eine, der Weg wir würden heute sagen, der europäischen Technokraten, das, was heute getan wird. Also da, wo sich Möglichkeiten bieten, zugreifen und zu warten, ob sich andere schon. Das andere wäre die Möglichkeit des föderalistischen Weges gewesen. Das heißt also ein Weg, der die einzelnen Teile durchaus in Kraft hält, aber zu einem politisch einigen zusammenfügt. De Gasperi habe sich nie eindeutig, soweit er die Quellen kenne und sie ihm zugänglich seien, habe er sich nie für den einen oder anderen Weg entschieden. Es scheine ihm aber, dass De Gasperi im Innern eher Föderalist als Technokrat in diesem europäischen Sinne gewesen sei. Und er stellt nun die Frage,